sopracciglia, il suo dolore da raccontarmi. Madre, donna lunga ai fianchi, nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti. Ma non mi senti o non mi ascolti mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto. Padre, se mi manchi è perché ho dato più importanza ai miei lamenti. Madre, perché piangi? Ma non mi hai detto tu che una lacrima è un segreto. Ed io ci credo, ma non ti vedo, mentre grido e canto le mie prime note. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Padre, mille anni e quante bombe sono esplose nei tuoi ricordi. Oh no, madre, tra i gioielli sono ancora il più prezioso tra i diamanti. Ma non mi ascolti, non mi senti, mentre parto sulla nave dei potenti. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, se foste con me. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Padre, occhi gialli e stanchi, cerca ancora i tuoi proverbi a illuminarmi. Madre, butta i panni, prova ancora se ne hai voglia a coccolarmi. Perché mi manchi se sono stato così lontano, è stato solo per salvarmi. Così lontano è stato solo per salvarmi.